Adesso un altro grande maestro, il maestro Sergio, con la sua fisarmonica da tango, con un tango conosciutissimo perché è la colonna sonora di Vecchia Romagna. Signori, dal maestro Astor Piazzolla, Libertango. Domenico, bravi, vai, vai. Bravissimo, i nostri solisti. Grazie. Ok, ragazzi,